Mezzogiorno di Simone Spezia. Parte l'offensiva per liberare Mosul, roccaforte dell'ISIS. I curdi strappano 7 villaggi vicino alla città ieri liberata da Bikki in Siria. Referendum attesa per la sentenza del TAR sul quesito. Sono 5.000 i comitati per il sì, annuncia Renzi. Ci porta al baratro, dice Di Maio a Radio 24. Manovra i dubbi dell'Europa, Bruxelles la farà passare, dice il ministro Calenda ai nostri microfoni. Abolizione di Equitalia, addio a sanzioni e more. Più italiani che stranieri nelle mense per poveri al sud, e la povertà aumenta col diminuire dell'età. I dati emergono dal rapporto Caritas. State a casa e pentitevi invece di portare i ceri, così il parroco di Bitonto ai mafiosi in processione, ma non tutti i fedeli sono d'accordo. Inter Icardi verso l'addio alla fascia da capitano per lo scontro coi tifosi sul suo libro. Il Milan affianca la Roma al secondo posto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia, nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque andiamo prima in Iraq e poi in Siria per l'offensiva contro ISIS. La battaglia per liberare Mosul è cominciata. È stato il premier iracheno Abadi ad annunciare in TV le operazioni contro la roccaforte in mano all'ISIS. Al fianco delle forze locali ci sono le unità alleate e poi i peshmerga curdi, le milizie sciite, che però non entreranno in città per evitare tensioni con la popolazione. Nelle scorse ore c'è stato un intenso fuoco di preparazione mentre sulla città sono stati lanciati volantini per avvisare la popolazione. 9 i villaggi finora liberati. Si tratta della più grande operazione militare in Iraq da quando le truppe americane si sono ritirate nel 2011. Potrebbe rivelarsi lunga e difficile, ha avvertito il premier. E una forte preoccupazione è stata espressa dall'ONU per la sorte del 1,5 milioni di civili. Potrebbero ritrovarsi sotto assedio o diventare scudi umani dell'ISIS. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un villaggio della Siria relativamente piccolo, a metà strada tra Aleppo e il confine con la Turchia. La città di Dabi, che è in mano ai jihadisti dello Stato Islamico dal 2014, è stata conquistata ieri da ribelli siriani appoggiati dalla Turchia. Città piccola ma dall'altissimo valore simbolico. Lì, secondo una profezia dell'Islam sunnita, i musulmani del califfato avrebbero trionfato sui cristiani in un epico scontro finale prima dell'Apocalisse. Ma dopo Dabi, che promette Ankara, le operazioni continueranno. Strategicamente è importante che l'esercito siriano libero, appoggiato dalla Turchia, scrive il portavoce del presidente Erdogan, continui la sua avanzata verso Al-Bab, roccaforte chiave dei terroristi. E intanto di almeno 12 morti, tra cui 5 bambini, il bilancio di raid aerei russi o governativi su Aleppo Est, la zona della città controllata dagli insorti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi è di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. La battaglia per Mosul contro l'ISIS non è soltanto un'operazione complicata dal punto di vista militare ma anche politico. L'attacco coinvolge l'esercito iracheno con le milizie dei peshmerga curdi e quelle sciite, strette alleate del governo di Baghdad e dell'Iran. Sono inoltre schierate le forze speciali americane e le milizie addestrate dalla Turchia. È il più grande intervento militare in Iraq da quando le truppe statunitensi si sono ritirate nel 2011. Qual è l'obiettivo? Liberare la città ma anche contenere le perdite civili e soprattutto impedire che la caduta di Mosul si trasformi in una pulizia settaria tra sciiti e sunniti, come è accaduto in altre offensive contro il califfato. I peshmerga curdi hanno annunciato che non entreranno in città e c'è tensione tra Ankara e Baghdad per la partecipazione anche indiretta della Turchia, che occupa da mesi una base militare irachena. Più che una coalizione di volonterosi, questa è una coalizione di litigiosi. La battaglia di Mosul è una formidabile contraddizione. Gli americani devono contare sull'esercito iracheno e le milizie sciite legate all'Iran, mentre in Siria Stati Uniti, Turchia e i loro alleati arabi sono avversari della Repubblica Islamica che con la Russia sostiene Assad. Ecco perché la battaglia di Mosul, come quella di Aleppo, è importante. Queste sono le città chiave per definire le future zone di influenza sia in Siria che in Iraq. Questo il quadro della lotta all'ISIS. Noi passiamo a parlare dell'Italia, veniamo alla politica innanzitutto, perché c'è grande attesa per la decisione del TAR sul quesito del referendum. Vincenzo Miglietta, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno, è così. I lavori della seconda sezione bis del Tribunale Amministrativo del Lazio, che sono iniziati da oltre un'ora, si discute del ricorso proposto da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana per contestare il testo del quesito referendario. Uno spot a favore del sì, lo hanno definito le opposizioni. Ad affiancare i ricorrenti c'è anche il Codacons, mentre Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia sono rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. Il Movimento 5 Stelle intanto questa mattina ha lanciato un sito internet, Io dico no, per spiegare nel dettaglio le 10 ragioni per il no, con Di Maio che è tornato a dire il referendum è una truffa. Ascoltiamo allora il vicepresidente della Camera intervenuto proprio a Radio 24. Tutto quello che sta avvenendo in questi giorni e avverrà nei prossimi mesi, tutto è legato alla volontà del Presidente del Consiglio di provare a coinvolgere cittadini per fargli votare sì. Ma quello che non ha capito è che intorno a questo sì, inseguendo questo sì, sta portando il Paese verso il baratro. Ancora le opposizioni. Nel fine settimana Berlusconi ha rotto intanto il silenzio su questo tema. In caso di bocciatura del referendum, ha detto, Renzi dovrà trarre le conseguenze del fallimento di un progetto al quale ha legato la sua intera azione politica. Se vince il no, questo governo non cade, mi sembra anche giusto, ha replicato invece il leader del nuovo centrodestra, Alfano. Partita ancora aperta intanto all'interno del PD, Del Rio invita all'unità. Se qualcuno vuole sfidare Renzi, lo sfidi a congresso, ha detto invece Franceschini alla minoranza. Infine, il presidente del Consiglio, sono 5.000 i comitati per il sì, ha detto lo stesso Renzi, no alla demagogia, si entri nel merito della riforma. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque Vincenzo Miglietta, siamo alla manovra. Approderà oggi a Bruxelles la manovra di bilancio da 27 miliardi di euro che dovrà superare l'esame della Commissione. Sotto i riflettori dell'Europa c'è il deficit di bilancio, programmato dal governo al 2,3% per avere un margine di spesa superiore con risorse da destinare a migranti e terremoto. Ma la soglia scelta dal governo potrebbe non piacere a Bruxelles, più propensa a fissare il deficit sotto il 2,3%, il che significherebbe una riduzione delle risorse da spendere. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, difende le scelte fatte e nella sua E-News spiega che il deficit è a livello più basso dagli ultimi 10 anni e il debito è stabilizzato. E sulle spese dei migranti, la UE, dice Renzi, deve dare una mano all'Italia. Sul fronte manovra, intanto, la cancellazione di Equitalia cambierà il modo di riscuotere le cartelle esattoriali, che potranno essere rottamate. Prevista la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul confronto con Bruxelles ha intervenuto questa mattina il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli. Sentiamo. Ma lei prevede che passerà in Europa? Sì, io prevedo di sì. L'Europa si divertirà e diletterà a giocare con i numeri, le singole misure, eccetera, perché questo è quello che fanno ormai. Ma alla fine la manovra riduce il deficit rispetto all'anno scorso passerà. E c'è un sacco di investimenti, quindi io credo che passerà. Così dunque Calenda, parliamo di povertà, adesso è stato diffuso il rapporto della Caritas. La crisi economica cambia il volto della povertà in Italia. Povertà che colpisce nel nostro paese ormai quasi 4.600.000 persone, cioè 1.582.000 famiglie, il picco più alto dal 2005 in 10 anni, secondo i dati Istat, da cui parte il rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale 2016, dal titolo Vasi comunicanti, diffuso oggi dalla Caritas, in occasione della giornata mondiale contro la povertà. Questo rapporto mette in luce un'inversione totale di tendenza che riguarda gli anziani. I più indigenti non sono loro, ma i nuovi poveri assoluti per la prima volta sono i giovani, come sottolinea Federica De Lauso, ufficio studi Caritas Italiana. Aumenta la povertà anche tra le persone che hanno un impiego, aumenta la povertà tra i giovani. Per la prima volta nel 2015 assistiamo a una povertà che va ad aumentare al diminuire dell'età della persona di riferimento. Sono ancora soprattutto gli stranieri a chiedere aiuto ai centri di ascolto della Caritas. Al sud però la percentuale degli italiani ha superato di gran lunga quella degli immigrati. I nostri connazionali nel mezzogiorno sono 66% contro il 57% della media. Continua a essere la percentuale più alta quella degli italiani al sud e rimane costante negli anni. E per la prima volta chi ha bisogno di aiuto in Italia è sia uomo che donna, in parità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica con il conclave della giunta Raggi in un agriturismo. Un conclave di due giorni in un agriturismo alle porte di Roma, un'esperienza che si ripeterà, dice Virginia Raggi, dopo il ritiro organizzato ad Anguillara. Obiettivo dell'incontro, quello di fare squadra e cercare di ripartire dopo un'estate tutt'altro che facile per la giunta capitolina a 5 Stelle, con la sindaca, assessori, consiglieri comunali pentastellati e 5 mental coach inviati dalla Casa Leggio e associati. Abbiamo sbagliato su alcuni nomi, ma li abbiamo cambiati, ammette la prima cittadina, che finisce anche al centro di qualche polemica per un video postato su Facebook, ma subito rimosso ufficialmente per la sua scarsa qualità tecnica. Nelle immagini, riprese con qualche difficoltà dalla Raggi, si vedono i partecipanti all'incontro che ridono e festeggiano in un clima goliardico. Troppo, secondo le opposizioni, che vanno all'attacco. I grillini romani fanno bagordi, ma poi se ne pentono e ritirano il video. È l'affondo che arriva dal Partito Democratico, secondo il quale, mentre la scolaresca 5 Stelle ride, scherza e canta, la capitale piange. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca con l'omicidio di Loris. Oggi potrebbe essere il giorno della sentenza. Ha chiesto 30 anni di carcere e un risarcimento di 2 milioni di euro per la madre del bambino, unica accusata. Per ultima parlerà l'imputata, Veronica Panarello. Poi il giudice dell'udienza preliminare, Andrea Reale, entrerà in camera di consiglio per decidere se, come sostiene l'accusa, fu lei ad ammazzare il figlio oppure no. Sono passati quasi 2 anni dall'omicidio di Loris, il bambino di 8 anni, ucciso il 29 novembre 2014 nella sua casa di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Il suo corpo era stato ritrovato nel canalone di Contrada Mulino Vecchio. Oggi l'udienza finale alla presenza di tutti i protagonisti. Se le discussioni in aula saranno brevi, già questa sera potrebbe arrivare la sentenza. L'ultima difesa dell'imputata accusava il nonno di Loris che lo avrebbe ucciso perché il bambino aveva scoperto la relazione adultera tra lui e la madre. Una versione smentita dalle telecamere del paese che non avrebbero registrato nessuna immagine dell'uomo nei dintorni della casa del nipote. Per l'accusata sono stati richiesti 30 anni di reclusione dalla procura, oltre che un risarcimento di 2 milioni di euro dal marito. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, il calcio che ci porta su due fronti, uno più puramente di classifica che cambia e l'altro di polemica per quanto riguarda il capitano dell'Inter, che forse da oggi non lo sarà più, Carlo Genta. Ciao. Ciao Simone, mi auguro che la società non sia così debole, ma questo aprirà mille discussioni. Io lo so così debole da togliere la fascia a Mauro Icardi, che è stato eletto capitano, a torto o a ragione, per questa famosa biografia. Tra l'altro c'è stata una coda, uno striscione appeso dagli ultra più oltranzisti davanti a casa di Icardi. Insomma, la battaglia verbale continua e le polemiche pure. L'Inter, d'altra parte, è una delle, forse la notizia della giornata, perché è una pessima Inter. Ha perso in casa ieri con il Cagliari, ironia del destino, Icardi ha pure sbagliato il rigore del possibile 1-0, poi l'Inter è in effetti passata in vantaggio, subito una rimonta del Cagliari alla fine, e certo De Boer oggi è sulla graticola e c'è chi vorrebbe già un esonero. Altra notizia della giornata è invece il sole che splende sull'altra faccia di Milano, quella che è considerata più debole, quella che ha mille problemi societari non ancora risolti, quella che ha fatto una campagna acquisti praticamente inesistente. Ebbene, il Milan ha vinto 3-1 in casa del Chievo, con gol di Kučka, bellissimo, Niang e l'autorete di Dainelli, poi Birsa, ed è si è arrampicato al secondo posto dietro una Juventus che francamente pare già irraggiungibile a quota 21. Poi troviamo Roma e Milan che sono appaiate. Tra l'altro, Milan-Juventus è il prossimo capitolo di questo libro. E il Napoli in difficoltà, la Lazio che acciuffa il pareggio all'ultimo momento con il Bologna. Insomma, una brutta Fiorentina che stenta in casa con l'Atalanta e pareggia soltanto a 0-0. Insomma, questa è grosso modo le notizie di giornata. Ci sarà una coda a questa giornata e sarà Palermo-Torino questa sera. Ti ringrazio Carlo e ti ritroviamo come sempre dopo le 14 con tutti i convocati. Immaginiamo già la pioggia di telefonate sul tema Icardi, avrete di che parlarne sicuramente. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Parleremo oggi parecchio di criminalità organizzata e lo faremo con due storie che arrivano, una dalla Puglia e l'altra dalla Campania, e sono due storie che riguardano uno chef e un parroco. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente dell'offensiva su Mosul in Iraq e in Siria contro l'ISIS, abbiamo parlato di referendum, abbiamo parlato della manovra, abbiamo parlato dei nuovi dati della Caritas sulla povertà. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Palma Campania. Siamo alle spalle del Vesuvio in provincia di Napoli e siamo là dove Pietro Parisi, 35 anni, uno chef importante, ha lavorato tra gli altri con Alain Ducasse, Gualtiero Marchesi, ha deciso di tornare perché la sua terra e aprire un ristorante con noi. Parisi, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Ed è sulle croniche dei giornali in queste ore perché ha deciso di cacciare un estorsore dal suo ristorante. Quest'uomo, questo ragazzo in realtà, è entrato dentro e che cosa le ha chiesto, Parisi? Vabbè, come il problema è che questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché queste cose succedevano già da tempo. Io ormai ero stanco di dire sempre di sì a queste persone che vengono, ma soprattutto erano giovani, 25-30 anni, che ti vengono a chiedere sempre un'aiuto economico in cambio di nulla, ma soprattutto a certe ore della giornata, che è mezzanotte e 10, quando sei veramente stanco e dopo una giornata di lavoro, e ti vedi imporre alcune cose da fare. Ma certamente sono persone che dico, che gli ho detto no, ma soprattutto per un esempio molto fondamentale, quindi che questi giovani possono prendere un'altra strada, sì, perché sono ancora in tempo di cambiare. Che ma questo è venuto, mi scusi Parisi, per rimanere un attimo sulla cronaca, questo è venuto e le ha chiesto dei soldi. Ma quanto le ha chiesto, giusto per curiosità, per capire? 50-100 euro è la richiesta economica che loro fanno al di solito. Questo è, quindi le dico, è proprio una cosa povera, diciamo spicci, diciamo, rispetto, beh, a quello che fa normalmente la camorra. E lei che gli ha detto a questo qua? Io gli ho detto, guarda, io adesso sto uscendo da lavoro, darti dei soldi sarebbe veramente umiliante, perché sei giovane e potresti anche lavorare, soprattutto non regalo niente a nessuno, se vuoi dei soldi devi lavorare, cercami un lavoro, sicuramente qua non è. E il problema è stato affrontare questa persona, perché tu dall'altra parte non sai mai a chi hai di fronte, soprattutto in che modo può reagire. Esatto, potrebbe reagire con un coltello, con una pistola, con una cosa di questo genere, no? Sono contento di dire di no, perché questo no è stato un no che poi alla fine ho visto che la gente intorno a me è stata contenta, perché comunque è stato tipo una sorta di risveglio, no? Dicendo nulla è dovuto, tutti si devono guadagnare, quindi è stata una cosa veramente importante, anche perché ci siamo tolti veramente forse dalle scatole qualcosa che ci rendeva veramente fastidio. Che poi, Parisi, mi sembra di capire che questi non è che sono camorristi veri, no, e propri, no? Sono ragazzi che seguono dei film dove forse è quello il problema, è cercare di attrarli prima al lavoro, perché questi sono tra un biglio. O se lo diventeranno dei futuri lavoratori o diventeranno dei futuri mani della camorra. Quindi noi dobbiamo cercare di aiutarli dicendogli di no, noi li aiuteremo, perché se nessuno gli darà dei soldi, questi dovranno trovare la via del lavoro. E quello è che è stata la mia intenzione, soprattutto di cercare di reagire a questa cosa, anche se capisco bene che reagendo in quel modo ho rischiato tantissimo. Allora Parisi, noi le auguriamo, come dire, il meglio possibile, come dire, per la sua battaglia, insomma, il suo ristorante, tra l'altro ve lo diciamo perché a questo punto, come dire, siamo contenti quando possiamo parlare di un ristorante pizzo free, lo trovate a Palma Campania, lui è Pietro Parisi, se volete le informazioni, diciamo così. Allora Parisi, io le auguro in bocca al lupo appunto per questa sua battaglia, e noi continuiamo a parlare di criminalità organizzata e lo facciamo andando a Bitonto e siamo in Puglia. Che cosa è successo? È successo che nei giorni scorsi il parroco di Bitonto, lo sapete, il grande problema che c'è in una serie di città e di piccoli paesi del Mezzogiorno, il fatto che ci sono dei malavitosi, dei mafiosi, cioè la criminalità organizzata che ha i boschi, vanno in processione in qualche modo anche per esibirsi. Nei giorni scorsi il parroco ha detto non sporcate la festa, preferisco che restiate a casa e cominciate un percorso di pentimento. i ceri in processione non li dovete portare. Che cosa è successo? È successo che qualche collega di Repubblica, del quotidiano La Repubblica, Repubblica.it, è andato a raccogliere qualche voce in processione dei, degli abitanti di Bitonto, ed è uscito anche questo. Che siamo tutti, anzi lui deve aiutare chi sta in mezzo a questa strada. No, che li caccia da una processione, che sono come noi, siamo tutti qua. Deve fare solo il prete e basta, altrimenti falli falli, chi se ne va a suo padre. Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, buongiorno. Buongiorno. L'ha sentiti? Che dice? Posso assicurare che la maggioranza della città non la pensa come questi cittadini, il che in questo momento mi è sufficiente considerando la lotta quotidiana che stiamo facendo, soprattutto sui giovani, per insegnare o perlomeno cercare di farlo una cultura della legalità diversa. Tra l'altro, Abbaticchio, lei è vicepresidente di Avviso Pubblico, che è questa associazione che si occupa esattamente degli amministratori minacciati, perché lei è minacciato. No, noi sì, al di là, questa è una delle iniziative. Lo scopo principale di Avviso Pubblico è la formazione civica per la cultura contro tutte le mafie, che è una cosa in cui in Italia andrebbero investite maggiori risorse. Senta, l'appello del parroco lo condivide lei? Mi sono già espresso pubblicamente nel condividere lo spirito con cui il rettore della Basilica dei Santi Medici ha espresso questo messaggio. Lo spirito era quello di dire che per chi ci campa dalla malavita e ci campa anche bene nel lusso ed è convinto di farlo e di continuare a farlo sulla pelle dei ragazzi, è inutile che partecipi alle processioni se poi non manifesta reale pentimento con le sue stesse azioni. Non parliamo sicuramente delle persone che sono obbligate a vivere nel crimine perché non trovano altre alternative, a quali forse facevano riferimento i cittadini intervistati prima. Il messaggio di Don Vito è un messaggio chiaro, peraltro espresso in una settimana completamente dedicata, in collaborazione con il Comune, alla promozione della cultura della legalità. Quindi va letta anche sotto questo profilo. Va letta sotto questo profilo. Lei dice una minoranza, cioè quelli che sono stati sentiti e che abbiamo sentito negli audio son pochi, non sono tutti, no? Ma credo proprio di sì. Io non mi permetterei mai di dire a un prete, a un sacerdote che opera come opera Don Vito, che ha anche una fondazione che aiuta un sacco di gente a titolo di volontariato, di andare via perché si è permesso di criticare i boss o i presunti boss della malavita locale. La ringrazio, grazie Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre cosa succede sui mercati e poi un'altra storia dal territorio, è una storia che arriva anche in questo caso dalla Campania, da Pozzuoli, dove è iniziato oggi il processo nei confronti di un uomo che ha dato fuoco alla ex. Lei ha la 21esima operazione, 21 operazioni dopo quello che le è successo. Le ha dato fuoco mentre era incinta, tra l'altro, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: è partita l'offensiva per liberare Mosul, i curdi sono a 7 km dalla città ma hanno fatto sapere che non entreranno, intanto hanno strappato 7 villaggi là vicino, ieri è stata liberata da Bik in Siria. Il referendum c'è attesa per la sentenza del TAR sul quesito, 5.000 i comitati per il sì, annuncia Renzi, ci porta al baratro, dice Di Maio a Radio 24. Sulla manovra ci sarebbero i dubbi dell'Europa, Bruxelles la farà passare, dice il ministro Calenda ai nostri microfoni. Più italiani che stranieri nelle mense per poveri al sud, emerge dal rapporto Caritas. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia riprende da Pozzuoli e dunque torniamo in Campania. La vicenda risale al 1 febbraio scorso e non so quanti di voi se la ricorderanno tra le decine di storie che siamo costretti a raccontare di violenza sulle donne, in particolare da parte degli ex. Lei si chiama Carla Ilenia Cagliazzo e il 1 febbraio scorso il suo ex marito l'ha cosparsa di alcol e le ha dato fuoco. Tra l'altro Carla Ilenia Cagliazzo Cagliazzo era incinta e per fortuna la bambina, pur nata prematura, sta bene. Ustioni sul 40% del corpo, 21 interventi chirurgici subiti. Oggi è iniziato il processo. Tra le persone che lo sta seguendo, che lo stanno seguendo, c'è Caterina Sanfilippo, avvocato della Forza delle Donne, che si è un'associazione che si è costituita come parte civile. Avvocato Sanfilippo, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il punto qua è che lei, Carla Ilenia Cagliazzo, vuole, e non ci è riuscita questa volta, ma ha intenzione di farlo, vuole andare di fronte all'uomo che ha tentato di ucciderla, questo Paolo, Pietro Paolo, che è il suo ex marito, il suo ex compagno sostanzialmente. Vuole presenziare al processo e vederlo in faccia, ho capito bene? Sì, sì, lei vuole vederlo in faccia, non ha paura e ovviamente rappresenta un po' quelle che sono tutte le donne che vengono, subiscono minacce, violenze da parte dei mariti o ex compagni. Non è stata oggi presente in udienza per motivi fisici e il processo è stato rinviato al 27 ottobre per la discussione delle parti civili. Non si sa se per il 27 ottobre riuscirà ad essere però presente, sempre per motivi fisici, perché martedì scorso è stata sottoposta all'ennesimo intervento chirurgico. L'ennesimo intervento chirurgico, si diceva il 21esimo. Come sta lei? Sta male, ma fisicamente sta male, moralmente sta male, ma ha una grande, grande forza. Adesso ha una splendida bambina e quindi lo deve fare non solo per lei, per la figlia e per tutte le donne. È questo che vuole fare, ve l'ha detto, no? Vuole esserci proprio per questo, per essere un punto di testimonianza. Un punto di testimonianza e diciamo anche un punto di partenza, un esempio, affinché tutte le donne riescano ad avere la forza di uscire da quello che è un silenzio e da anni di violenze subite e riescano a reagire a questo che io definisco ormai un problema soprattutto anche culturale, sicuramente non residuale. 15 anni la richiesta della procura per... 15 anni, sì. 15 anni. Le sembra sufficiente? L'imputato ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, quindi il rito abbreviato gli concede il beneficio di uno sconto di un terzo della pena, quindi in realtà la richiesta del pubblico ministero sarebbe di 22 anni e mezzo, con la riduzione di un terzo 15 anni. Potrebbe essere sufficiente, ma potrebbe anche, poi la sentenza potrebbe anche andare oltre quella che è la richiesta del pubblico ministero, così come potrebbe anche ovviamente avere di meno lì Pietro Paolo. Ha dimostrato un qualche pentimento Pietro Paolo, da che voi sappiate? Ma no, sinceramente oggi in udienza lui era presente, però non ha detto niente né ha dato segnali. Senta una cosa, quindi questo è il quadro. Carla Ilenia Cagliazzo ci diceva spera di esserci quando? Spera di esserci per fine processo. Oggi il giudice ha rinviato la data del 27 ottobre e probabilmente in prosieguo per la discussione del difensore dell'imputato al 23 novembre, nel caso in cui non si riuscisse a chiudere il processo per il 27 ottobre. Quindi in una delle due udienze Carla Ilenia spera di essere presente. Allora, noi la ringraziamo. Grazie Caterina Sanfilippo, avvocato della Forza delle Donne, che si è costituita parte civile appunto in questo processo, una vicenda che continueremo a seguire. Adesso è il momento di Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.